comunque nel paese ci sono, sotto un'apparente cappa plumbea, in realtà si muovono diverse cose, e abbiamo detto le resistenze non bastano, le resistenze sono importanti, sono anni che parliamo di resistere, di resistenze, di resistenza, anche giustamente con la R maiuscola, però le resistenze devono essere poi finalizzate a un contrattacco. Ok, difendere l'area di rigore va bene come un solo uomo, anche facendo dei falli, ma poi devi fare il contropiede, ecco, e quindi il contrattacco allude e si riferisce a questo. Insomma, questa è una tre giorni ambiziosa, impegnativa, cerca di mettere assieme vari progetti, vari laboratori in corso, varie reti di compagne e compagni. Partiamo dalla cultura, non a caso che è la festa della letteratura sociale, perché partiamo dai libri, dalla cultura, ma poi in realtà spaziando, andando molto più in là. E questa tre giorni è organizzata da VAC 61 e da Edizioni Alegre, e in qualche modo eredita diciamo, l'esperienza che era stata della festa di letteraria e poi si era chiamata semplicemente festa della letteratura sociale, e poi si è deciso appunto di trasformarla in qualcosa di più, insomma, di più proteso in avanti e di chiamarla Contrattacco. Questa sera presentiamo il libro La controfigura di Luigi Dondini, che è uscito qualche tempo fa per la collana che io, Mominguno, dirigo per le Edizioni Alegre da qualche tempo, che si chiama Quinto Tipo, e ne parleremo. Dopo ci sarà la presentazione del libro di Angela Davis, Donne, razza e classe, con la traduttrice Marie Moïse, con due scrittrici, Ijara Scego e Gabriella Curuvilla, e con una rappresentanza di Non Una di Meno Bologna. Quindi sarà un momento dedicato, insomma, alle lotte intersezionali, appunto donne, razza, classe. E si metterà il libro di Angela Davis, che è un'opera seminale che ha, insomma, ha aperto dei percorsi, che si metterà in una sorta di stampante 3D e la si scansionerà da più direzioni. Poi ci sarà lo spettacolo ideato da Piero Puric, storico e musicista, con musicisti, poi annunceremo tutti subito prima dello spettacolo, che si chiama Rifiuto la guerra, che è appunto una tessitura di storie di disezione e insubordinazione, un po' il nostro modo di celebrare in un altro modo, di commemorare in un altro modo, alieno a tutta la retorica e la spazzatura nazionalista delle ultime settimane, la fine della prima guerra mondiale. E quindi c'era questo spettacolo. Domani, nutrito programma, anche domani, inizierà alle 5 con un incontro che abbiamo chiamato Sentire le voci, no? Che non è il sentire le voci del delirio, ma è proprio nel fatto che si sentono delle nuove voci in città ed altre che invece si sentono da tanto tempo si stanno relazionando con queste nuove voci, e sarebbero i nuovi progetti radiofonici in città. Quindi ci sarà Noi Radio, appunto questo nuovo progetto di web radio, che tra l'altro seguirà questo festival con alcuni podcast e speciali di approfondimento. Ci sarà Radio Città Fujiko, esperienza ormai consolidata e storica, che sta mandando in questo stesso momento la tre giorni, da qui fino a domenica sera, in diretta streaming. Ci sarà Michele Pompei con la sua esperienza, diciamo così, di One Man Radio, che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo, che si chiama Nino Web Radio, che adesso trasmette la Radio Città Fujiko. Insomma, si farà un ragionamento a tutto campo su come riempire l'aere e il web bolognese di nuove voci, nuove progettualità legate alla voce e alla radio. Poi ci sarà la presentazione, anche qui abbiamo voluto fare un festival di nuovi inizi, quindi nuovi avvii, progetti che partono. Ci sarà la presentazione della nuova collana per Edizioni Alegre, diretta da Alberto Prunetti, che sarà qui con noi, appunto autore di Amianto, una storia operaia di 108 metri. Questa nuova collana si chiama Working Class e il primo titolo è Ruggine meccanica e libertà, del nostro Valerio Monteventi. Quindi siamo molto contenti, appunto, di avere anche questo momento qui proprio in casa, perché appunto al VAG presentare il nuovo libro di Valerio è un appuntamento fisso, ma in questo caso è qualcosa di aumentato e di potenziato, e siamo molto contenti siamo molto contenti di questo. E dopodiché ci saremo di nuovo a Lui Wuming. Io ho cercato di non fare troppo il prezzemolo, faccio una cosa oggi, una cosa domani, sarò con il mio collega Wuming 4 perché presenteremo il nostro nuovo libro uscito da veramente da pochissimo, Proletkult, tra l'altro fuori è stata riproposta proprio per via di questa presentazione una mostra di manifesti e di comunicazione della rivoluzione bolscevica che era stata allestita qui al BAC per il centenario appunto l'anno scorso della rivoluzione d'ottobre, quindi è là fuori che si può dimenticavo anche la mostra che c'è qua dentro che è legata a Ruggine Meccaniche e Libertà e magari poi Valerio potrà dire qualcosa dopo. E poi ci sarà la serata, insomma, come diceva Emma Goldman, If I Can't Dance, It's Not My Revolution, ci sarà quindi la serata con il DJ set calibro 7 pollici. Poi invece domenica, tardo pomeriggio, anche lì inizio alle 17, ci sarà la presentazione del progetto Nicoletta Burbacchi. Nicoletta Burbacchi è un gruppo di lavoro sulle bufale storiche, sulla manipolazione neofascista della Wikipedia italiana, sul revisionismo storiografico in rete e sulle ideologie neofasciste in generale, che esiste dal 2012, ha fatto un sacco di inchieste di, come si dice, di debunking, di smontaggio di bufale fasciste legate appunto al ventennio, al Salò, alla Resistenza, alla Seconda Guerra Mondiale, alle foibe, alla storia del confine orientale, e domenica presenterà questo ebook che è una guida su come riconoscere e disinnescare le bufale storiche in rete, un ebook scaricabile dal nostro blog Jab che si chiama Questo chi lo dice e perché. Dopodiché ci sarà uno dei momenti più attesi di questa, credo sono tutti momenti molto attesi, ma questo in particolare c'è veramente molta frenesia, che è la presentazione del primo numero dell'edizione italiana della rivista Jacobin, che appunto esce in Italia per edizioni Allegre con delle caratteristiche che in parte richiamano la casa madre, diciamo così, l'edizione statunitense della rivista, ma altri invece che in qualche modo sono vista che le reinterpretano con una forte autonomia dovuta al fatto che l'Italia non è gli Stati Uniti, il contesto è diverso. Il primo libro si chiama Vivere in un paese senza sinistra e è già disponibile da stasera sul banchetto e verrà presentato da vari esponenti del collettivo redazionale. Dopodiché aperitivo rinforzato, come è stato chiamato, perché non vogliamo usare espressioni come apericena e cose di questo tipo, e poi concerto con un ensemble molto particolare che reinterpreta appunto musiche dell'Anatolia, musiche del Kurdistan, della Turchia,